sono qui, non vivo più. Cammino ma non so perché, senza di te che senso ha? Per te strangolerò la rabbia, per te io fermerò la pioggia e i lupi poi cancellerò. Ascolta un po', un cuore che ha pianto te, in mezzo a mille cose che cambiando poi mi lascian qui. Per te io scordo la violenza, per te reinventerò l'infanzia che i lupi sa ammaestrar. Vorrei in fondo gli occhi tuoi scordar le pene e far con i capelli tuoi le mie catene. Vedere che per l'amor che tu hai da oggi in poi scompare chi non sa amar. Stringiti a me, valgo soltanto quel che sai. Le unghie e i denti anch'io li ho, ma i sogni miei non son così. Per te soltanto tenerezza, per te la nostra debolezza, i lupi poi sconfiggerà. Così cammino senza te verso l'abisso. Lo sai, sarei senza di te meno che niente. Ritorna qui e con te, con l'amor, cancellerò i lupi attorno a noi. Vieni con me, candidamente crederò che nei segreti del tuo cuor un mondo arriva e l'altro va. Per te la fede più profonda, lo sai, mi porta nel tuo mondo, dove vedrai non ci saranno più i lupi.